Tiziana Tosca Donati, conosciuta da tutti come Tosca. Questa sera sarai sul palco di Piazza Verdi, protagonista del Lirico Festival, la proposta estiva del Teatro Comunale per Be Here Bologna Estate 2018. Presenterai insieme al tuo ensemble acustico il nuovo progetto Appunti Musicali dal Mondo. Mi pare di poter dire che ciò che sentiremo non è un punto di partenza, ma un punto d'arrivo. Appunti musicali dal mondo è un viaggio attraverso la musica o la musica attraverso un viaggio, come la giri va bene lo stesso. E quindi come tale è proprio come quando inizi a viaggiare. Vedi una cosa, poi ne vuoi vedere un'altra, poi ne vuoi vedere un'altra, poi ne vuoi vedere un'altra. Ecco, Appunti musicali è nato perché all'incirca 15 anni fa ho cominciato a innamorarmi della ricerca musicale, senza limiti. Ero un po' guidata dall'aspetto teatrale perché facevo degli spettacoli teatrali con delle prospettive ben precise, allora non so, la musica Yiddish, allora mi immergevo in tutte quelle che erano le possibili radici e declinazioni dell'Yiddish, poi la musica rebetica, poi la musica del Mediterraneo, poi insomma erano un po' dettate da dei plot teatrali che pulivano una firruse. Da lì poi ho detto, ma scusa, ma se lo faccio sulle cose straniere, perché non lo devo fare con le mie? Perché sai che noi siamo italiani, purtroppo, inconsapevolmente, siamo molto legati a tutto quello che viene fuori. Quello che è fuori da qui è bellissimo, quello che abbiamo qui non ce ne rendiamo mai conto, soprattutto nella nostra cultura. E quindi ho cominciato intanto ad approcciare le mie radici, la musica romana, che ha dei gioielli del 600, del 700, delle cose meravigliose. Poi la musica napoletana. E poi l'ultimo lavoro che ho fatto invece proprio in giro per l'Italia, si chiama Viaggio in Italia, e ho fatto una ricerca su tutte le più belle canzoni della tradizione italiana, anche quelle sono andata a ricercare un po' con degli studenti con cui io collaboro di Officina Pasolini, centro culturale che dirigo, sono andata a cercare in giro per l'Italia anche nelle montagne, nelle campagne per andare a trovare delle cose che si stavano perdendo, no? 4 anni fa ho pensato di fare uno stato dell'arte, ho pensato che volevo in qualche maniera raggruppare tutte le cose più importanti che avevo studiato, che avevo visto, che avevo sentito e fermarlo, come si fa? Un po' fanno i cantanti lirici, no? Fanno lo stato dell'arte di 10 anni, 15 anni. Non riuscivo assolutamente a capire come farlo. Volevo dare un cuore, un'anima a questo progetto, non volevo che diventasse un disco a capitoli, un disco a anno, su cose fredde quelle. In quel periodo che stavo, no, di fermento, di composizione, di ricerca, mi sentivo con Ivano Fossati e gli raccontai questo progetto. E gli ho detto, se mi piacerebbe tantissimo tu mi scrivessi una cosa, sai. E ho detto, ma ci penso, non è semplice perché comunque bisogna capire che tipo di cosa vuoi fare. Dopo un paio di mesi mi arrivò questa meravigliosa canzone che si intitola Il suono della voce. E il suono della voce è diventato il cuore di questo progetto. Ivano, grande autore, grande produttore della musica italiana, delle donne italiane, mi ha scritto questa canzone che è stata un po', ecco, come costruire il cuore di un progetto. E da lì il suono della voce, appunto, è il suono della voce del mondo, il suono della voce come suono dell'essere umano, è il suono della voce della terra. È un po' l'anima di ogni essere vivente, il suono della propria voce. È nato questo disco, da questo disco è nato un live e il live, viaggiando, viaggiando, si arricchisce sempre di più, non solo di canzoni, ma anche di collaborazioni. E quindi prima che il disco si intitolava Il suono della voce, poi con tutte le cose che sono andata a cercare è diventata Appunti musicali, perché sono dei veri e propri appunti musicali in giro per il mondo. Ho fissato, diciamo che ho messo un punto di partenza di Appunti musicali un anno fa quando ho fatto un grande evento qui all'Auditorium di Roma. Ho radunato tutte le persone importanti della mia carriera, proprio quelli che sono stati un po' cardine, quindi Nicola Piovani, quindi Giorgia Telesforo ai miei inizi, quindi Gio Barbieri che è colui con cui sto collaborando adesso e poi Dani Lorea sempre ai miei inizi collaboravo con loro quando facevo parte di International Dog Club di Renzo Arbore, poi Germano Mazzocchetti e poi Gabriele Mirabassi, insomma dei punti cardine. E da lì ecco è nato questo progetto che da solo, inspiegabilmente, se ne va in giro per il mondo perché veramente sta diventando una cosa che stiamo seguendo anche con tanta fatica perché non è semplice passare dal Brasile a Parigi, a Lisbona, poi tornare qui in Italia. Facciamo dei concerti in luoghi d'arte e quindi abbiamo fatto un concerto in una villa del Palladio meravigliosa vicino Vicenza. La sera prima eravamo nella piazzetta del Velluto vicino Trento, un bargello di Firenze, Castel Sant'Angelo, il Pantheon e adesso ecco stiamo girando il mondo. Tosca, a me piace pensarti come un'artista coraggiosa. La tua fama, infatti, è arrivata con la televisione a fianco ad Arbore e quindi con la vittoria a Sanremo insieme a Ron, però non ti sei adagiata, come a molti colleghi tuoi succede, rischiando di replicare se stessi. Hai continuato a fare ricerca musicale, andando alle radici prima della tua cultura e poi via via di altre, come dicevamo prima, attraverso il teatro canzone. Senza voler creare inutili e inesistenti parallelismi sulle qualità vocali o artistiche, però voglio dire che mi ricordi, per quel che riguarda il percorso di sperimentazione, personaggi come Elina Sastri, Gabriella Ferri. Beh, mi hai fatto un complimento, meraviglioso. Ecco, E poi arrivi in Piazza Verdi dopo i Carmina Burana. questo magari se non me lo dicessi, adesso vengo con un po' di angoscia. Venire dopo con tanta bellezza, insomma, spero di non deludere, ecco. Che sono tra i primi esempi di ricerca e trascrizione della cultura popolare del tempo. Mi pare che ci sia un filo conduttore in tutto questo. Ecco, io dirigo un centro culturale, ci vuole una logica nel dare anche un'offerta culturale e questa logica deve essere in alcuni momenti, anche se vuoi, impopolare, perché mai come oggi c'è bisogno di, fra virgolette, dar da mangiare culturalmente alla gente, perché tutto questo poi si riversa anche nella nostra situazione politica. Oggi noi ci arrabbiamo con i politici, ma non dobbiamo arrabbiarci con i politici, dobbiamo arrabbiarci con noi stessi, che non facciamo niente quotidianamente per far sì che la persona vicino a noi conosca o sappia, no? Io mi ricordo i miei nonni quando i miei nonni erano emigranti. Io sono una nomade artistica, loro erano dei nomadi purtroppo per necessità. E mi raccontavano delle cose terribili, terribili, di come vivevano lì in America, terribili. Questo per dirti, quando mia nonna la prima cosa che mi ha detto è che non dovevo mai, mai, mai smettere di essere curiosa e di dare agli altri e di accogliere, mai, perché è il momento in cui una civiltà muore, e la ragione, aveva ragione, nel senso che siamo lì chiusi ma non ci preoccupiamo più, siamo tutti lì a dire, vabbè, quello è un cretino, quello fa male, quello... ma noi cosa facciamo ogni giorno per poter cambiare questa cosa? Noi dobbiamo agire. Con il nostro operato, in ogni campo, nel mio campo, il mio dovere è quello di far conoscere. Certo, è un far conoscere sicuramente legato anche ad un plot di delicatezza, di bellezza, non è che non sono una professoressa, una divulgatrice pura. Però far conoscere è importante e creare un'offerta culturale che faccia in qualche maniera arricchire la gente, non un'offerta commerciale, perché solo l'offerta commerciale porta all'appiattimento di testa, allo svago del momento. E questo è molto importante, no? In questo la programmazione che è stata fatta, come tante che ci sono in questo momento e come in qualche maniera lo Stato deve fare, è quello di dare più possibilità anche a quelle cose commerciali che tu vai di meno a vedere, perché spinta dal fatto che oggi non si hanno le armi necessarie e culturali e strutturali per poter scegliere, purtroppo siamo scelti e questo si riversa in tutto. Oggi è diventato uno sport litigare, uno sport insultarsi. Io ritorno sempre al discorso di mia nonna, no? E lei diceva: siediti a un tavolo e parla bene di tutti, vedrai che dopo un po' non ti parla più nessuno. È tutto vero. Io ero bambina e lo sperimentavo. Il seme della zizzania, della calunnia, è proprio insito nell'essere umano, però se tu lo scardini non solo con la positività, ma anche cercando in qualche maniera di dare, non è un principio cristiano, è proprio un principio sociale, civile. Uno è in mare, lo devi tirare su, non può morire, perché andare verso la vita è naturale, andare a morire è innaturale, no? E se partissimo da questo, tutti questi signori che stanno lì sui loro scranni dorati, non ci sarebbero. E invece no. Bene, non ci resta che ricordare l'appuntamento a questa sera alle 21:30 in Piazza Verdi con Tosca e gli appunti musicali dal mondo.